adesso facciamo, adesso adesso basta la chitarra, facciamo delle richieste, a richiesta, gentile richiesta. No, no, no, un musicista non fa richiesta. E che cazzo ci fai? Se mai che ci offre un spritz, scusa. Mai spritz lo so io. Se vuoi che ci vanti le mani. Oh, provochiamo anche i baci in diretta, ragazzi. Sì, però se no si finisce di pesca. Che c'è che no? Lucio Battisti, sì, sì, sì, ragazzi, non finite che mi guardi. No, aspetta, lui la sa. Dai, allora, dai, immagini, dai. È bellissimo, è bellissimo. Uno che conosce il tequila. Ho il 28. Allora, adesso facciamo un brano di John Lennon. Quasi! John Lennon, quasi. Allora facciamo un brano di John Lennon. Ciao, John Lennon. Vai. Oh, bravo! Arriva la prova. Allarga, allarga.